Non ho mai capito, francamente, perché gli esponenti del centrodestra nutrono tanto amore per l'espressione e il concetto di stati generali. Dal loro punto di vista, a rigore di logica, quelle due parole dovrebbero essere temute e abolite, visto che, come forse ricorderete, i più famosi stati generali della storia, convocati dalla buonanima di Luigi XVI nel lontano 1789, pur essendo stati indetti con funzione meramente consultiva, tanto per dare una parvenza di legittimità alla decisione già presa di istituire certe nuove imposte, si conclusero inopinatamente nel salone della Pallacorda, un episodio che ebbe, come noto, delle conseguenze che né il re né i suoi ministri avevano previsto o avrebbero potuto approvare. Ma forse i nostri governanti, il cui livello culturale è quello che è, non conoscono abbastanza la storia e certe implicazioni non sono in grado di afferrarle. Così, da quando il sindaco della nostra città, Vinetto Albertini, ha avuto l'idea di convocare nello scorso gennaio gli stati generali del comune di Milano, con i brillanti risultati da cui tutti in questi ultimi mesi vi sarete resi conto, le iniziative del genere fioccano con desolante regolarità. Se oggi lo stesso Albertini sta preparando a quel che si mormora gli stati generali del traffico, un'imponente assemblea destinata a sanzionare quei poteri straordinari che il povero Pavone ha tanto brigato per farsi assegnare, la ministra Moratti, sul suo illustre esempio, suppongo, ha deciso di presentare l'ennesima proposta di riforma del sistema scolastico, convocando e facendo svolgere proprio questa settimana quegli stati generali della scuola di cui la stampa ha avuto nei giorni scorsi ampia occasione di riferire. E certo gli Albertini, le Moratti e chi per loro giocano abbastanza sul sicuro. E non soltanto perché sanno benissimo che tra le file dell'opposizione non c'è particolare abbondanza di spirito giacobino. E il fatto è che i loro stati generali non sono in nessun modo delle assemblee. Non sono delle aggregazioni di cittadini che possano rivendicare a qualsiasi titolo una sia pur vaga funzione rappresentativa o decisionale. E sono, o hanno notato in parecchi, degli eventi meramente mediatici, delle riunioni televisive a invito, la cui capacità di esprimere un punto di vista sui problemi del traffico, su quelli della scuola o di qualsivoglia altro, è sicuramente inferiore a quella del salotto di Paolo Limiti o dell'auditorio di Bruno Vespa. Non a caso l'organizzazione degli stati generali della Moratti era stata affidata in prima battuta alla premiata ditta di Maurizio Costanzo ed è stata curata, dopo il sagace ritiro di costui, da un'altra struttura specializzata in eventi. In un paese in cui il dibattito politico è praticamente confinato nell'ambito dei talk show e dove il problema principale dei leader parlamentari, quelli dell'opposizione inclusi, è quello di badare a che le votazioni più significative siano sincronizzate con la diretta TV, non ci si può aspettare nient'altro. E neppure Robespierre, che pure non era affatto ignaro per i suoi tempi della funzione dei mezzi di informazione di massa, avrebbe potuto fare un granché con un pubblico di invitati accuratamente selezionati dal sovrano regnante. Agli spettacoli televisivi, sin dai tempi di Rush o Raddoppia, gli spettatori sono invitati al solo scopo di fare da clac, e da questa funzione possono esimersi soltanto a proprio rischio e pericolo, come hanno potuto verificare i non molti studenti e i pochi insegnanti che, per essersi tolto il gusto di fischiare da ministro e suo capo, si sono beccati una salutare dose di sganassoni. Non succederà più, naturalmente. Anche se la Moratti, con imprevedibile signorilità, ha commentato che anche questo è un segno di democrazia, riferendosi credo ai fischi e non agli sganassoni, Berlusconi si è mostrato molto meno equanime. Lui, nelle proteste altrui, non sa vedere altro che grida scomposte. E in futuro, vista la sua leggendaria capacità di badare ai particolari, starà ben attento che la cernita degli invitati sia più severa e il servizio di sicurezza più sollecito. Anzi, per essere ancora più sicuro, vedrete che i prossimi stati generali non li farà né a Foligno né al Palazzo dei Congressi, ma in un bello studio, non importa se di Mediaset o della RAI, con un pubblico di comparse professionali e forse neanche in diretta. Tanto gli italiani, abituati come sono a vedere la realtà soltanto attraverso il tubo catodico, non se ne accorgeranno nemmeno. crazy.